Milan Eba, aspetta, Milan e Manera, Champagne Barbera! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E allora alle 9:08 minuti siamo qui fino alle 11 con voi, con Pietruzzo la Corte in regia. Bravo Pietruzzo, oggi che ci proponi? Intanto ormai si sa che rubi così a DJ Lucchetti, DJ Nespoli, DJ Lorenz i brani. Oh, ci sono sempre più persone che scrivono che ascoltano questa trasmissione solo per la musica, quindi oggi ti proporrei di fare minuti e minuti di musica e noi diremo ogni tanto delle cose, ma qua e là, proprio se strettamente necessario. Siamo qui con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, con voi se volete all'800 24 0024, e se volete scriverci 349 238 6666, alla mail, giusto, non dico mai la mail, 100milan@radio24.it. vai. I will not be easy and it will not be easy. Rock duro. Beh, questo rock duro non tantissimo, non durissimo, c'è qualcosa di più duro di questo, in questo rock, no? Vabbè. Ricordo, signori, che da 79 giorni 18 marittimi di Mazara del Vallo sono detenuti a Bengasi in Libia. Nessuno ne parla, da una parte ti dicono ma non parlarne perché così si lavora nell'ombra. Forse nessuno ne parla perché bisogna coprire anche qualche mancato intervento che quella notte dell'1-2 settembre potevamo anche fare con la Marina Militare Italiana. Comunque io li ricordo, da 79 giorni, i loro familiari tra l'altro sono a Piazza Montecitorio, lì all'addiaccio a dormire con le tende per richiamare la politica a questo impegno. Richiamare la politica e dire il ministro degli esteri intanto, Luigi Di Maio, certamente una situazione non semplice da risolvere, e si dirà lavorerà nell'ombra. Per carità, voglio adesso dire una cosa sul ministro degli esteri Luigi Di Maio, quello che ha scritto ieri su Facebook, che non c'entra con la questione dei marittimi di Mazara del Vallo, ma se tanto mi dà tanto, questo è. Allora, Luigi Di Maio ieri su Facebook è intervenuto dicendo sono mesi duri, è inutile girarci intorno. È vero, sono mesi molto duri. Ha parlato della crisi economica, di molti italiani che non ce la fanno, e ha detto questa frase: 3 milioni di persone riescono ad andare avanti grazie al reddito di cittadinanza. Sapete la battaglia politica del Movimento 5 Stelle, senza il reddito queste persone sarebbero allo stremo. E poi eccola la frase: inoltre, se oggi abbiamo scongiurato 2 milioni di licenziamenti, è grazie al decreto dignità con cui abbiamo convertito il 300% di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Beh, non so se vi siete resi conto, Di Maio ha detto che sono stati convertiti da tempo determinato a indeterminato il 300% di contratti. Ma che diavolo vuol dire il 300%? Giustamente oggi Mattia Feltri sulla Stampa, ma anche ieri l'Huffington Post, il direttore sempre Feltri, ha vergato questo commento a dire: non sappiamo che cosa volesse dire, possiamo presumere che volesse dire qualcos'altro, perché convertire il 300% dei contratti è operazione impossibile, almeno secondo le leggi che governano questo universo. Cioè, i contratti possono essere convertiti in una forchetta che va dallo 0% al 100%, e tutti i numeri che stanno in mezzo, non ne converti nessuno, ne converti alcuni, li converti tutti, ecco il 100%. Invece secondo Di Maio, e probabilmente nell'ambito della sconfitta della povertà, il governo parzialmente stellato ne ha convertiti in un numero maggiore del totale. Ha preso 100 lavoratori precari e li ha convertiti in 300 lavoratori a posto fisso. E questo è il commento sull'Huffington Post apparso ieri. Ecco, è così. Di Maio ha convertito, voleva dire probabilmente qualcos'altro, 300% rispetto a qualche anno fa. Non lo sappiamo che cosa volesse dire. Certo, messa così la frase, abbiamo convertito il 300% di contratti, vuol dire che la matematica è un'opinione. Questo vuol dire. Poi vabbè, io vorrei fare un appello ai calabresi. Calabresi, ma per cosa avete fatto voi per meritare tutto questo? Io vorrei veramente vorrei dare a tutti voi calabresi una carezza. Mi dispiace, cioè io non lo so che cosa abbiate fatto per meritare tutto quello che sta succedendo sulle vostre spalle, sulla vostra pelle. Qui si parla di salute, quindi proprio letteralmente sulla vostra pelle. Non lo so che cosa abbiate fatto. Quello che sta succedendo sulla questione del commissario è incredibile. È incredibile. Oggi infatti Michele Serra nella Maca inizia così: nessuno mi ha ancora chiamato per nominarmi commissario alla sanità, francamente non capisco perché. L'iter è semplice: si viene nominati, non si accetta, si rimane amici, poi tocca al successivo. È un modo per conoscersi, fare conversazione, rilasciare interviste di giornale, serve anche a rivitalizzare i politici locali, per primo il pimpante Spirlì, il facente funzione che ogni nuovo commissario rivendica gli eccellenti risultati fin qui ottenuti nella regione, nel settore ospedaliero, ambulatoriale, diagnostico. Vado a farmi curare in Calabria è diventato un modo di dire a significare l'eccellenza. C'è il sigaro cubano, il caviale iraniano e la terapia intensiva calabrese, scrive con pizzico di cinismo anche e grande ironia e sarcasmo Michele Serra. Il commissariamento è tutta invidia. Poi ci sarebbe Gino Strada, che pare disposto a accettare, ma è un medico e questo potrebbe essere di grave impedimento. Già, è stato un chiaro colpo di mano delle istituzioni affidare il rifacimento del ponte Morandi a Renzo Piano, un architetto. Ora appare esagerato affidare a un medico competenze sanitarie. Vabbè, qua Michele Serra fa un endorsement per Gino Strada, mi piaceva più nella prima parte, no? Quando effettivamente, ironicamente, ironizza sul... Non lo so, calabresi, cosa avete fatto? Chiamateci all'800 24 0024. Cosa avete fatto per meritare questo? Anche per meritare una frase come questa che Simone Spezia ha mandato, ma la voglio mandare anch'io, no? Il magistrato, ex magistrato Ingroia dice sostanzialmente che... nell'area complottista evidentemente è l'Andrangheta che ha ramificazioni anche in Cina, e l'Andrangheta potrebbe essere all'origine della diffusione del virus. Vai Pietruzzo, mandami in groia. C'è qualcosa di oscuro anche oscuro all'origine di questa pandemia. Se 2 più 2 fa 4 con il ragionamento del cui prodes, allora ci si deve interrogare se fosse vero che questa pandemia non è stata casuale, ma è stata determinata, può darsi che qualche componente criminale all'origine di questa, di questo avvio abbia avuto un ruolo. Ovviamente quale? L'Andrangheta. L'Andrangheta. Pensa a questo, vai. Se fosse vero che tutto nasce dalla Cina, beh, l'Andrangheta calabrese poi era la principale ormai multinazionale del crimine che abbiamo in Italia. In quanto multinazionale tiene relazioni con tutte le mafie del mondo. Calabresi, cosa avete meritato? Cosa avete fatto per meritare tutto ciò? Anche il PM, ex PM Ingroia, che è siciliano, peraltro non è calabrese, e che dice che l'Andrangheta forse, se tutto attenzione alla premessa, 2 più 2 fa 4, quindi conosce la matematica meglio di Di Maio fino a questo punto. Se 2 più 2 fa 4, e fa 4, e quindi questa premessa, come dire, ed è nato dalla Cina, il virus è diffuso dalla Cina e si è diffuso dalla Cina, e l'Andrangheta è in Cina, e l'Andrangheta è anche in Cina, allora 2 più 2 fa 4, ho capito, manca la questione di dimostrare che sia stato diffuso appositamente dalla Cina e dall'Andrangheta, ma questo è un passaggio evidentemente secondario per l'ex PM Ingroia. Ah, ragazzi, vorrei arrivare al mio primo ospite, perché fioccano i sondaggi su un altro grande tema. Visto che arrivano i vaccini, i sondaggi dicono chi dice il 18%, chi il 15%, chi il 30%, insomma sono molti italiani che non vorranno vaccinarsi. Arriverà il vaccino, tutti guardano al vaccino come la panacea di tutti i mali, la speranza, eccetera, e molti italiani dicono: ma guardate che io questo vaccino non lo vorrò fare. Sembravano lontani i tempi dei Novax, però molti italiani hanno dei dubbi, non si fidano. Altri italiani, e voglio arrivare alla mia ospite che saluto, invece dicono: vabbè, vaccino sì, però non potete obbligare a fare il vaccino. E stiamo parlando di un altro vaccino, in questo caso quello anti-influenzale, ma il tema comunque è lo stesso. Saluto Barbara Mangiacavalli, che presiede la Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri. Buongiorno, buongiorno Mangiacavalli, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tanto le chiedo un commento su queste statistiche, cosa ne pensa? Oggi i giornali sono pieni di queste analisi sugli italiani che in una percentuale più o meno tra il 30 e il 20, dipende dal sondaggio, non vorranno vaccinarsi quando arriverà anche un vaccino. Che dice? Ma trovo che siano un po' azzardate, anche un pochino premature, nel senso che è vero che ci sono vaccini che ormai sono in fase 3, quindi sono quelli, come dire, più vicini all'emissione nel mercato, sì. Ma è anche vero che occorre impostare una campagna comunicativa istituzionale fondata su evidenze scientifiche, fondata su elementi oggettivi di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini tutti e degli operatori. Noi stiamo assistendo a, come dire, a teatrini, mi permetto di usare questo termine, in televisione in questi mesi, che a mio personale avviso non hanno fatto bene a nessuno. Io credo che il dibattito tecnico-scientifico non si debba tenere in uno studio televisivo, ma si debba tenere in contesti adeguati, e poi la comunità scientifica deve dare informazioni ai cittadini, perché altrimenti incorriamo in quella che ormai è stata definita infodemia, dove sembra che si possa dire tutto. Sì, guardi, tanto, sfondo la porta aperta, io su questo sono totalmente d'accordo, cioè qui in questa trasmissione parliamo anche per esempio del Covid, ma parliamo anche di altro, cioè invece questa idea di dover riempire i palinsesti dalla mattina alla sera con i virologi che fanno il giro delle televisioni, ma non solo i virologi, anche gli esperti, i non esperti, i commentatori, basta, non se ne può più. Anche perché poi il cittadino, come dire, riceve 10 informazioni diverse l'una dall'altra, quindi è difficile, come dire, pensare che il cittadino possa avere le idee minimamente chiare su un argomento, tra l'altro, dove, come dire, le idee chiare oggettivamente non sono neanche tantissime allo stato attuale. Abbiamo sicuramente più conoscenze rispetto a marzo, ma stiamo ancora scoprendo tante cose. Sì. Senta, le chiedo anche questo, perché poi mi interessa sapere anche il ruolo dell'infermiera, che è un ruolo cruciale, non mai sottolineato abbastanza. Però l'abbiamo chiamata anche per questa notizia che arriva dalla Puglia, riguarda invece l'altro vaccino, quello l'anti-influenzale. Perché alcuni nella regione Puglia, l'ordine degli infermieri ha contestato l'idea della obbligatorietà del vaccino, cioè non di farlo, ma del senso della obbligatorietà. E allora qualcuno ha detto: ma come, se anche alcuni infermieri si ribellano, mi faccia passare questo termine, il cittadino cosa può pensare? Beh, però qui credo sia opportuno riposizionare un attimo il tipo di informazione. Allora, l'Ordine degli Infermieri non ha contestato l'obbligatorietà, l'Ordine degli Infermieri ha contestato il fatto che di fronte a questa indicazione regionale il sanitario, quindi parla, è rivolta, l'indicazione regionale è rivolta a tutto il personale sanitario, quindi infermieri ma anche medici, sì, operatori sociosanitari, tutte le altre professioni sanitarie, il sanitario che non si vaccina può essere soggetto a sanzioni da parte delle aziende. Allora, questo è, come dire, una sorta di eccesso di potere rispetto ad una situazione che è assolutamente, come dire, prioritaria e strategica. Gli infermieri da sempre sostengono i vaccini e le campagne vaccinali. Abbiamo fatto un manifesto approvato da tutti i presidenti provinciali degli ordini in Consiglio nazionale a sostegno anche del decreto che ha modificato, sì, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini. Quindi gli infermieri, come professione, come codice deontologico, da sempre sostengono i vaccini e sono a favore delle campagne vaccinali. Sono a favore anche della campagna vaccinale antinfluenzale. Sì. Però da qua a, come dire, prevedere una sanzione per chi non si vaccina diventa, come dire, un elemento di forza introdotto. Sì. Una riflessione che deve scaturire soprattutto da questioni quindi culturali. È la, questione... è la sanzione voi che contestate. Però mi viene da dire, ma scusi, percentualmente, secondo lei, quanti infermieri sono no-vax? Ecco, non sono contrari alla vaccinazione? Perché mi stupisce questa cosa, cioè sono pochi. Percentualmente non glielo so dire. Gli infermieri in Italia iscritti agli ordini sono 450.000. Sì. Quindi un esercito sostanzialmente, che è quello che tra l'altro sta tenendo in piedi questo nostro sistema sanitario nazionale, perché non a caso ci hanno definito la spina dorsale del sistema sanitario nazionale. Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. Quindi c'è sicuramente una quota, come c'è in tutte le professioni peraltro, di infermieri... chiamiamoli Novax, sì, in qualche modo. Solo che la vostra è una professione particolare, cioè me lo potrei aspettare tra gli ingegneri, tra i giornalisti, ma meno tra gli infermieri. Ma c'è in tutte le professioni sanitarie una quota di colleghi che ha un pensiero diverso. Le posso dire però una cosa, che ogni volta che un infermiere anche sui social media posta qualcosa o esce pubblicamente con qualche posizione vicino a atteggiamenti negazionistici o di Novax, la comunità professionale stessa prende le distanze, ma soprattutto lo segnala all'ordine competente per l'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare, lo segnala anche alla federazione. Comunque c'è una sensibilità soprattutto deontologica, di rispetto nei confronti del cittadino, per, come dire, sanzionare, cioè la comunità professionale non accetta questo tipo di atteggiamento, quindi è già insito all'interno della professione. Questo è l'elemento, a mio avviso, è l'elemento fondamentale. No, ma certo, le faccio un'ultima domanda, perché lei ha detto giustamente la spina dorsale, se ne parla sempre poco degli infermieri, poi ci sono gli assistenti ospedalieri importanti e i medici. Siete pochi, siete tanti, dovreste essere di più? Ma allora, se si guarda il numero complessivo è un numero che fa impressione, perché come ho detto 450.000 sicuramente è un numero significativo, però siamo pochi rispetto ai bisogni di salute dei cittadini, rispetto ai nuovi bisogni di salute dei cittadini. Lasciamo perdere il discorso pandemia, che ci sta facendo vivere in una bolla che non ha niente di ordinario anche rispetto al sistema sanitario, ma già in condizioni normali è un paese che sta invecchiando con fragilità consistenti nella popolazione, con cronicità, con comorbidità, che ha bisogno di avere un territorio forte, un territorio che risponde, un territorio che faccia da cintura di protezione rispetto all'ospedale, che deve servire esclusivamente per la patologia acuta. Gli infermieri sono pochi, la federazione ha stimato che ne mancano almeno 53.000. Il decreto rilancio ha introdotto gli infermieri di famiglia e di comunità, tassello importante nella costruzione di questa rete territoriale, in sinergia con i medici di medicina generale, con i pediatri, con gli specialisti, con gli enti locali, comuni, servizi sociali, stimato in 9.600 infermieri, 8 ogni 5.000 abitanti. Ad oggi siamo arrivati ad averne in servizio meno del 10%. Ah, quindi lei dice ne mancherebbero 53.000 secondo le stime vostre. Io la ringrazio, Barbara Mangiacavalli è presidente della Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri, per essere stata con noi. per siamo partiti anche da questa cosa del vaccino. Scriveteci anche, per esempio ci scrive un medico che dice: io questo vaccino lo farò, sono medico, lo farò solo dopo che avrò visto e avrò capito gli effetti indesiderati eventuali nel lungo periodo. Non so, nessuno di noi qui è esperto di vaccini, forse Pietro La Corte, tu non hai studiato, ma ti eri laureato in... non eri virologo tu? No, secondo me sei un bel faccione in TV, no? Di quelli, sai, che dice, si scelgono gli autori televisivi, scelgono dicendo: ah, un bel faccione questo in TV, pensavo fossi virologo. Allora ti manca allora questa seconda specifica, se no potevi andare anche tu a fare il giro di qualche trasmissione televisiva. Vabbè, 9:28 minuti, niente, chiamateci anche pur nella vostra ignoranza come mia sui vaccini, ecco, diciamolo, a meno che non siate medici eccetera, per dire se temete, avete paura, che cosa temete di questa storia del vaccino. Astenersi complottisti, 5G, Soros, Bilderberg, dai, questo, a questo giro almeno, oggi non ho voglia di sentire robe di Bilderberg, dai, su, Big Pharma, queste robe qui, dai, quelle le studiamo poi nel pomeriggio, prendiamo un giorno di pausa. Un attimo di pubblicità, poi ci raggiunge Leonardo Manera e torneremo sulla questione dei medici, i medici che vengono a casa. Perché c'è stata una sentenza del TAR del Lazio, noi abbiamo raccontato qui la forza, l'importanza di medici che vanno a casa a curare i pazienti, l'abbiamo fatto con dei medici che lo fanno, ne abbiamo avuti 3 nel giro di una settimana, e adesso il TAR del Lazio dice: ma i medici non sono loro, i medici di base, quelli che devono andare a casa, ma bisogna mandare le unità speciali. Vabbè, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Signora Mangia Cavalli ha perfettamente ragione. Teatrini in TV, ma anche in Radio Milan, e tu ne sei un fulgido esempio. L'infermiere, l'operatore sanitario, il medico che non vuole vaccinarsi non può andare a lavorare in ospedale. Punto e basta. Paolo Vaverona. Allora, Di Maio è stato ministro del lavoro, adesso è ministro degli esteri, potremmo farlo anche ministro della salute, intanto non c'è il 2 senza il 3. Milan, la radio costa, non parlare di gente inutile all'inizio programma. Buongiorno Leonardo, buongiorno Manera. Buongiorno Leonardo e buongiorno Manera. Eccolo qua. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, buongiorno. Ecco. Come stai? Un attimo che sono allo specchio, mi sto specchiando un momento. Perché stavo notando con dispiacere che ho perso il 300% dei capelli che avevo una volta. Anche tu. Oh, sai che uno mi ha scritto: stamattina fai politica. Ma perché fare politica è dire che uno più uno non fa tre. Cioè, se Di Maio dice che hanno convertito il 300% dei contratti, uno rimane un pochino stupito, visto, a sapere come ha fatto. Come ha fatto? Ha detto il ministro, secondo me siamo noi che non abbiamo capito, perché lui in quanto ministro io credo che abbia una cultura e modo di esprimersi anche superiore al nostro, quindi io farei ammenda e chiederei a noi stessi di migliorare per arrivare al giusto pari livello del ministro degli esteri. Giusto. Secondo me l'atteggiamento giusto e corretto sarebbe questo, non criticare il ministro che sicuramente è il più preparato di noi, ma criticare noi stessi che non siamo in grado di capire quello che intende. Giusto, giusto. Rispondo solo all'ascoltatore che dice: anche qui fate teatrino. Io per la verità stiamo cercando di fare una battaglia, a dire si può parlare di Covid, ma parliamo anche di altro in 2 ore, e anche oggi faremo così, dopo parleremo di bambini star di YouTube, teatrino. insomma, teatrino. Certo, quando arriva Manera un po'. Teatrino era un meraviglioso locale che c'era in largo corsia dei Servi a Milano, in pieno centro. Era un locale di spogliarelliste, bellissimo, meraviglioso. Largo corsia dei Servi numero 4. Tu lo frequentavi, eri abbonato ogni anno. Fisso. Allora, noi abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione dell'importanza delle cure a casa. Abbiamo avuto il professor Cavan, oncologo a Piacenza, il dottor Munda, medico di base che nella Bergamasca gira per chilometri e chilometri, poi non ricordo il terzo nome, ma insomma abbiamo avuto un altro medico di base che ci racconta come con l'ecografo portatile va a casa, cura i pazienti a casa e, se intercettati subito, molto spesso queste persone non hanno bisogno di andare in ospedale. Ora però c'è una sentenza del TAR del Lazio che dice che i medici di base non sono obbligati ad andare a casa, anche perché dovrebbero essere state fatte delle unità speciali per andare appunto a curare i pazienti a casa. Io voglio salutare con questa premessa un medico di base che è anche vice segretario nazionale della Federazione di Medicina Generale, Domenico Crisarà. Buongiorno, dottor Crisarà. Buongiorno a tutti. Lei quanti pazienti ha da medico di base? Sono 1570. 1570. Senta, oggi il presidente della federazione, in un'intervista a Filippo Anelli, ha detto: è giusto così, cioè non è questione di cattiveria o di essere eroi, non essere eroi. Il medico di base non ha l'obbligatorietà di andare a casa e quindi è giusto che il TAR lo abbia ribadito. Come la mettiamo? No, va bene. Intanto la sentenza del TAR riguarda pazienti Covid. Sì, certo. Si fa una distinzione tra il paziente isolato Covid, portatore di Covid e quindi infettivo, e il resto dell'assistenza. Dice su una cosa che, io, per carità di Dio, io non discuto mai le sentenze. Ne prendo atto anche con grande perplessità. Sì. Dice che per l'assistenza a domicilio dei pazienti Covid sono state create queste USCA. Queste unità cosa vuol dire? Unità speciale di continuità assistenziale. Ecco. Ma esistono? Esistono? Cioè ci sono? No, ci sono. Sono assolutamente sottodimensionate rispetto a quello che era stato deciso, e soprattutto vengono utilizzate con grande fantasia da parte delle varie aziende, delle varie regioni, perché nascono come supporto al medico di medicina generale nella gestione, che è cosa ben diversa, del paziente Covid. Questo perché? Perché come avete visto, si è verificato soprattutto nel primo periodo, ma continua a verificarsi, che la mancanza di sistemi di protezione, sì, ai medici di medicina generale ne ha fatto praticamente una strage. Questo è vero, cioè lei dice: se io vado a casa di uno a fare una visita domiciliare di uno positivo, ma c'è il rischio di, sia per lei, di ammalarsi. Sì, c'è il rischio per me di ammalarmi, e vabbè, è quello si è visto, sì. sono quasi 100, su 200 morti, sì, medici morti, e quasi poi, 100 su medici, certo, da vita. E poi di contagiare altri. Poi c'è il problema di contagiare altri. Allora, in quel momento si è pensato di affiancare degli altri colleghi, che possono essere anche medici di famiglia, al medico di famiglia, in modo che gli desse una mano nell'assistenza a domicilio. Ecco, il problema è che abbiamo capito, scusi dottore, da diverse altre esperienze di dottori che vanno a casa, fanno chilometri e chilometri, che andare a curare a casa subito, intercettando la malattia e con un'assistenza continua, si riduce il livello di ospedalizzazione in maniera significativa. Assolutamente vero, tant'è che noi abbiamo fatto ben prima dell'era Covid, una campagna di sensibilizzazione, che poi le dirò come è sfociata, affinché si fornissero, perché non è che basta andare a casa, bisogna andare a casa attrezzati per poter fare, certo, una diagnosi completa. Quindi l'ecografo portatile, ne abbiamo infatti parlato, l'ecografo portatile. Però in era pre-Covid, quindi stiamo parlando novembre 2019, di questi tempi dell'anno scorso, il governo e il ministro fanno un investimento di 230 milioni di euro per fornire ai medici di famiglia queste attrezzature che gli fanno. Sì. Oltre al personale, perché ormai queste cose non si possono più fare se io della mia ora per 20 minuti faccio la segretaria, 20 minuti faccio l'infermiere e poi 20 minuti riesco a fare. No, ma su questo non c'è dubbio, cioè il medico allora deve avere tutto il tempo per fare il medico. Esatto. È che però i cittadini si trovano in una situazione in cui, dico, la maggior parte, a parte i dottori che noi abbiamo intervistato che vanno nelle case, a dire chiamo il medico di base e è già tanto se poi mi richiama, se sono positivo, se mi richiama a dire come sto. Ma questi sono, come dire, i momenti di adesso. Noi eravamo partiti perché mettono in evidenza una mancanza organizzativa strutturale che noi stiamo denunciando da anni e su cui non si fanno investimenti, perché per tornare al discorso di prima le dico soltanto che i 230 milioni finanziaria sono ancora fermi là e non sono stati minimamente utilizzati, sì, tanto per capirci, perché poi di mezzo ci stanno le regioni. Allora non si può pensare che una situazione come questa si possa affrontare con one man show, cioè io che faccio tipo la Leacalì. Va risolta a livello strutturale, chiaro, esatto. Non è che possiamo contare su dei medici che dalle 8 del mattino alle 9 di sera vanno in giro su iniziativa personale. Dalle 8 del mattino di lunedì sono stato qua, dove sono ancora adesso in studio stamattina, alle 8, fino alle 11 e mezza di sera. Sì, sì, no, perché, ma... questa è la cosa, perché tu e io sono uno che è organizzato, nel senso che la fortuna di avere una segreteria, di avere una cosa, perché un impatto del genere, ecco, tra l'altro anche la domiciliarità deve essere pensata in termini di sicurezza. Io lavoro a Padova, nella prima ondata abbiamo dovuto sospendere l'assistenza domiciliare ai cronici, ne abbiamo 30.000 nel Veneto, non uno. Perché non avendo dispositivi di protezione rischiavo di essere io il veicolo che gli portava l'infezione e poi la portava in giro a tutti gli altri. No, quello è poveretto, un allettato che noi andiamo a vedere regolarmente un paio di volte a settimana. No, dico, ma se poi dopo lei asintomatico. Quindi il problema è molto più complesso. Poi chiaramente non è che dentro la categoria, come tutte le professioni, ci sono solo i santi. Ci sono i santi, ci sono i demoni e c'è chi fa il suo lavoro in modo coscienzioso e preciso, che è la stragrande maggioranza. No, ma non c'è dubbio, dottor Crisarà. Noi solo che, scusi, se nel frattempo le USCA non sono abbastanza attrezzate, i medici di base non vanno a visitare i pazienti domiciliari, il risultato è che si affollano i pronto soccorso anche per casi che magari non ne avrebbero necessità. Sì, lei dice, quindi, lo stiamo denunciando anche noi, cioè voi, no, come... Guardi che in questo momento i pazienti assistiti a casa in questa situazione sono 600.000. Se voi provate e questo di fronte ad un'ondata anche di preoccupazione collettiva. Perché eccessiva anche. Preoccupazione collettiva, ma che è giustificata dal fatto che tu non riesci più a guardare la televisione, ascoltare un programma, che non ci sia un virologo o un espertologo che dà indicazioni. No, giustamente anche lei nota questo aspetto che notiamo anche noi. È tutto il contrario di tutto, sì. E la gente è impaurita. Esasperata, sì. Chiaramente avendo noi l'attività intasata da soprattutto telefonate, richieste, trovando un puro non voluto, sì, di non risposta, sì. Chiaramente che cosa succede? Che si va al pronto soccorso. Allora, dottore, si fermi qui anche perché deve andare al traffico. Un ascoltatore, in modo un po' polemico evidentemente, dice sulla sua cifra 600.000 assistiti, scrive assistiti con vari punti di domanda, cioè diciamo formalmente assistiti a casa, poi questo lo registro, moltissimi, sono testimonianze, ci sono ovunque, raccontano che più che assistiti si sentono un po' abbandonati, ma per carità, è un sistema complicato. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Aveva ragione, non mi ricordo chi ha detto: se vuoi modernizzare l'Italia c'è una sola cosa da fare, abolire il TAR. Il famoso 300% di Di Maio, famoso perché così lo avete fatto diventare, è perché rispetto a un anno fa i contratti trasformati da determinati a indeterminati sono aumentati del 300%. Avesse spiegata così magari. Manera, il teatrino a Milano era una bomba assoluta, spettacolare, anni 90, tappa fissa, altro che uno nessuno 100.000, ma dove? Bravo Manera, come al solito sei sempre una persona, ecco, che dice cose sensate. Questa era di ieri. Bravo, bravo, bravo. Questa era di ieri, ricordiamo. Non ma chi, è tutti chi i giorni. Ricorda? Chi ricorda il teatrino, largo Corsia dei Servi numero 4? Poi c'era anche il teatrino 2, indietro Corso Buenos Aires. C'erano, ecco, questi due, ecco, appuntamenti. Vabbè. Due appuntamenti fissi, cioè te li facevi la combo, fissi. Ti facevi la tua. Dai, vai, no, vai, no. Leo, vai. Dici. Allora, spesso passiamo buona parte della vita a cercare di capire chi siamo veramente, chi vorremmo essere. Passiamo buona parte della vita a cercare di capire cosa dovremmo fare per cercare di dare pieno sfogo alla nostra identità. E allora andiamo dallo psicologo, ci confidiamo con amici, facciamo corsi di yoga, cerchiamo di approfondire discipline orientali che possano dare un senso alla vita. Io finalmente, a 53 anni, ho capito cosa vorrei essere per trovare piena soddisfazione nella vita. Molti bambini sognano di diventare calciatori. Altri di avere successo nel proprio lavoro, altri ancora si dedicano all'assistenza agli altri come modo per migliorare anche se stessi. Io no, ho capito che per essere veramente felice, se potessi, se ne avessi la possibilità, per essere veramente, ma veramente felice, se potessi, io vorrei essere il TAR del Lazio. Se io fossi il TAR del Lazio, troverei la felicità. Perché il TAR del Lazio, più di ogni altra cosa, più di ogni altro ente, più di ogni altra situazione, ha il potere di rimescolare tutto, di annullare sentenze, di dar ragione a chi aveva torto e di dar torto a chi prima aveva ragione. È l'ultima spiaggia, ma è anche quella da cui tutto può ripartire. Il TAR del Lazio è l'ultima speranza che però non muore mai. Adamo ed Eva sono stati espulsi dal paradiso terrestre, ma solo perché allora non c'era il TAR del Lazio, altrimenti avrebbero potuto far ricorso. Io sono sicuro che nel paradiso terrestre sarebbero stati riammessi. Ora, lo sapete, ne abbiamo appena parlato, il TAR del Lazio ha stabilito che i medici di base non sono tenuti alla visita a domicilio per i malati di Covid. Quello che sembrava poter essere un presidio utilissimo per evitare l'affollamento negli ospedali, nelle terapie intensive, viene ora rimesso in discussione al TAR del Lazio, che ancora una volta rimescola le carte. Anch'io vorrei essere un giudice del TAR del Lazio. Niente è impossibile per il TAR del Lazio. Il lupo di Cappuccetto Rosso potrebbe far ricorso al TAR del Lazio e forse ne uscirebbe vincitore. La strega cattiva di Biancaneve potrebbe essere riabilitata dal TAR del Lazio. Perfino Lucifero potrebbe far ricorso al TAR del Lazio e forse riotterrebbe un posto in paradiso. È l'Italia che a volte stupisce e sconcerta, come quando La settimana scorsa due diversi tribunali pugliesi hanno decretato l'uno che le scuole andavano chiuse e l'altro che le scuole dovevano rimanere aperte. È il bello della democrazia, è il bello di chi si addentra nei meccanismi giuridici dove l'ultima parola non è mai detta, soprattutto se riesce a far ricorso al TAR del Lazio, il mio TAR preferito, quello a cui vorrei ricorrere per ogni mio problema, per il quale apparentemente non avrei nessuna possibilità di uscirne vincitore, ma col TAR del Lazio non si sa mai. Il TAR del Lazio può ribaltare tutto, più di qualsiasi altro tribunale, perfino più di Alessandro Borghese, col suo voto può confermare o ribaltare completamente la situazione. Non è vero che finché c'è vita c'è speranza. No, il proverbio va cambiato e bisogna dire finché c'è il TAR del Lazio c'è speranza. Grazie TAR del Lazio, grazie a te abbiamo capito che tutto è possibile. Stupendo, se io rinasco TAR del Lazio, non è male. C'è Luca da Bologna, ce la facciamo prima del giornale radio. Vai Luca, in 30 secondi, sì. Grazie. Sì, buongiorno. Buongiorno. Quello che volevo dire io, sì? Come mai stiamo ancora a non dare un incarico, veramente un incarico, a una persona che intervenga sulla sanità calabrese? Lei è calabrese? Lei è calabrese? Sì. Mi trovo è di Bologna, ma non in Calabria da oltre 40 anni. Per motivi di studio, adesso per lavoro. Sarebbe ora di restituirla veramente la sanità ai calabresi, come dice il dottor Gratteri. Sì. Perché sicuramente, cioè, in questo modo non si va in nessun, cioè, non si può procedere così. È chiaro, Luca. Voglio dire, anche l'intervento che vuol fare il rispettabilissimo dottor Gino Strada, che sì. Cos'è? Fare delle strutture da campo, ospedali da campo, no. Dovevano oramai intervenire sulla sanità calabrese. Va benissimo anche quello se siamo in emergenza. Sì. Beh, un po' di emergenza c'è, però Luca, siccome devo andare al giornale radio, se no sforo, un po' di emergenza c'è. Certo, io assisto basito a tutto questo balletto, ragazzi. Tre commissari, cioè nel giro di una settimana, qualcosa. Dottor Gratteri, che magari domani sentiremo a questi microfoni se vorrà. Tra l'altro sai che velocemente io dovevo andare, io sai perché mi sono lasciato con la mia fidanzata, perché io volevo andare a Catanzaro a vivere e lei no. Ah, anche tu sei uno di quelli no a Catanzaro. Giornale radio. È bella Catanzaro, la conosco. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100 Milan. Com'era la storia che Milan, che qui da noi non si parla solo di Covid, cioè sono le 10 fra un po' e si è parlato solo di quello, aiuto. Uè Milan, non che mi piaccia Di Maio, ma oggi ti sei svegliato come il dottor Precisetti? Ma nega, sei un grande. Manera, il teatrino a Milano era una bomba, ma anche Illy La Tigress non ci scherzava lì, top. Manera, ma non è che chi ha perso le elezioni è Nasarco, adesso fa ricorso al TAR del Lazio. Potrebbe essere una soluzione. Posso ringraziare rapidamente il signor Marco, certo. Ieri mi ha fatto pervenire un sacchetto di castagne matte. Oh, grazie Marco. Grande! Adesso hai capito tutto? La differenza? Sì. Ne ho a casa, saranno tra l'altro, sono almeno, non so, una quindicina. Sì, ma non mangiarle. Quindi, non mangiarle. Molti anni sono coperto da ogni malattia, ho già imbottito tutte le tasche dei pantaloni di castagne matte, le ho cucite proprio dentro. Ah, ieri sai che un altro mi ha scritto: devi mangiare 5 mandorle al mattino appena sveglio e il raffreddore te lo dimentichi, così 5 mandorle al mattino. La castagna matta mi proteggerà da tutto, guarda. Vabbè, grazie Marco, l'hai salvato. Allora dai, l'ascoltatrice che dice sono le 10, oggi abbiamo parlato un pochino più di Covid, ma noi parliamo di tante altre cose. C'è proprio, questo è un po' disonesto, devo dire, perché se c'è una trasmissione in cui ci battiamo a dire parliamo anche d'altro, è questa. Almeno ho tanti difetti, praticamente più di quelli di Manera, ma almeno questo me lo dovete concedere. Infatti adesso parliamo d'altro. Oh, intanto Leonardo, io da ieri rido, praticamente da ieri alle 16, quando ho visto, conosco il motivo. Mi è arrivato questo video, guarda, io non lo so, non sono più uscito da questo trip, poi ridevo, facevo vedere il video ai miei figli, ridevano anche loro come dei matti, eccetera. Tu non conosci Akwasi Boadi, che è diventato un mito mondiale, non c'è trasmissione televisiva, ho scoperto, che si occupa di sport, dalla Spagna, l'Inghilterra, la Francia, forse anche l'Italia, che non lo mandi, che non l'abbiano mandato in onda. Akwasi Boadi, in arte Acrobeto, è un attore del Ghana, attore, comico, presentatore televisivo, che ha reso il suo analfabetismo una chiave di successo, perché lui è undicesimo di 11 fratelli, di cui 10 morti, pensa la storia, non ha ricevuto alcun tipo di istruzione, analfabeta, ed è diventato una star perché intanto ha fatto diversi film, adesso non li ho visti ovviamente questi film in Ghana, però va in TV a presentare, è la star di un programma in cui annuncia i risultati delle partite di calcio mondiali, quindi Bundesliga, campionato inglese, la Serie A. Solo che c'è un piccolo particolare, ma tu l'hai visto il video? Sì, l'ho visto. Non ti faceva ridere? Sì, faceva ridere, soprattutto quando pensavo che fosse un giornalista vero. No, non è un giornalista vero. Vabbè, vi dobbiamo far sentire qualcosa, perché lui annuncia i risultati, per esempio, della Serie A con grande serietà, ma legge i nomi un po' così. Dai, sentiamo, vai. Io ve li dico prima quali sono le partite, se no magari non capite. Serie A, Acrobeto legge i risultati dell'ultima giornata di Serie A. Vai, Pietruzzo. Serie A. Cagliari. Tu. Sampdoria. Sampdoria. Vabbè. Nero. Benevento, dai. Benevento. Sì, Spezia. Zero. Spezia. Spezia. Tre. Sì. Parma. Bamma. Zero. Vabbè. Fiorentina. Fiorentina. Zero. Dai. Lazio 1. Dai, Lazio. Lazio 1. Juventus. Juventus. 1. Atalanta. Atlanta 1. Bravo. Internazionale. Internazionale. 1. Gno 1. Gno, che è il Genoa. Roma. Sì. Vabbè. Ma è diventato talmente una star, ti giuro, legge la Premier League. A un certo punto è capitato sulla Bundesliga, campionato tedesco, e lì la pronuncia si fa complicata per chiunque, no? Allora, dai, vai. La Bundesliga. Germany. Bundesliga, Russia, Germany. Bundesliga. Oh, la prima squadra è l'Eintracht. E anche lui si rende conto. Ma ci riprova forse, ce l'abbiamo. Eintracht Frankfurt, dai. Vai, Acrobeto. Dai, vai, Acrobeto. This German Bundesliga. Bundesliga, vabbè, dai. Vai, dai. And Frankfurt versus Bundesliga. Okay, chi? German. Chi? Yes. Werder Brema adesso, e poi dice yes, come dire, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È un mito, è diventato il mio mito. È il mio mito, è il mio mito. Quando pensavo fosse un giornalista, pensavo fosse un giornalista ubriaco che non riusciva a leggere, poi invece. Ma perché mi dicono come fai a ridere? Mi scrivono, rido tantissimo, cioè, no, ma guardate bisogna i video. Dire che sì, e qui la radio fa perdere molto dell'effetto, vedendolo è divertente. Cercatevi i video su YouTube, Acrobeto è il suo nome d'arte con la K, Acrobeto, che legge i risultati della Premier League, e poi lui con la sua faccia, con la sua fisicità, è straordinario. Sampdoria, sì. Nil, zero. Va bene, dai. Vabbè, cari ascoltatori, andiamo a sentire il traffico, poi parliamo di questo, caro Leonardo. Tu hai, so che sei entrato in questa fase con Beniamino, tuo figlio, attaccato al cellulare. Ti ha anche chiesto di fare qualche canale YouTube, iniziare a fare le dirette. Guarda molto gli YouTuber. E il problema è che poi il linguaggio che viene usato dagli YouTuber in generale è sempre un linguaggio molto basico. Sì. E alla fine il linguaggio medio generale delle persone si impoverisce ed è un peccato. Ne parlavo proprio l'altro giorno, che insomma, a forza di avere un linguaggio sempre più basico, comprensibile per tutti, poi il linguaggio medio che usiamo diventa sempre più basico, con meno parole, e influisce anche sul resto della vita. Con quegli inglesismi, tra l'altro, pazzeschi. Ieri ho chiamato Sandro Fortunati per un problema, il nostro mitico Sandro Fortunati, e ho detto, guarda, senti, c'è qua Mattia, mio figlio, che dice che il computer suo lagga. Sandro Fortunati, che insomma vive di computer da sempre, dice: cos'è che fa il computer? Lagga. Ho detto: che cacchio vuol dire lagga? Ho detto: Mattia, cosa vuol dire lagga? E che va a scatti. Ah, lagga, sì, va a scatti. Parlano così ormai gli adolescenti: lagga, campera, schippa, in questo inglese bistrattato. Vabbè, ne parliamo tra un attimo. Strade in diretta. Di nuovo una buona giornata a voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti e un furgone, il raccordo di Bologna-Casalecchio risulta chiuso tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. All'interno del tratto chiuso è segnalato 1 chilometro di coda. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, il traffico risulta bloccato per un incidente tra Guidonia-Montecelio e il bivio per la diramazione Roma-Nord in direzione Milano. Code poi di 2 chilometri per un altro incidente tra Parma e Terre di Canossa in direzione Napoli. Sempre verso Napoli, code di 3 km per lavori tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, code per lavori tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova, sempre in direzione del capoluogo ligure. Code anche sulla 7 Milano-Genova, tra il bivio per la 12 e quello per la 10 Genova-Ventimiglia. È tutto per il momento, fate un buon viaggio. Uno, nessuno, 100 Milan. Only love can make it rain, the way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of lovers laying in the field. Ciao ragazzi, ma non avete sentito la notizia del giorno? Trump ha fatto ricorso al TAR del Lazio, eh? È tutto ancora da decidere. La Fiorentina, sì. E ci sono quelli che hanno scritto e mi accusano di razzismo, ma io veramente... Ma informatevi. No, perché ho capito perché pensano che lui sia inconsapevole, che parla così, perché non, no, è uno che lo fa apposta. Informatevi, studiate invece di sparare queste sentenze. Andate a vedere la vita straordinaria di Acrobeto a quasi Boadi, che è diventata una star nel suo paese, in Ghana, giocando su questo, giocando!

mi colpisce, non so, tu hai un giudizio negativo, Leonardo, sul genitore che ha reso star, che ne so, Eva Diana, 42 miliardi di visualizzazione a 6 anni. Probabilmente io immagino che sia una cosa nata per caso, cioè un giorno, sì, hanno messo un video del figlio, hanno visto che in tanti lo guardavano, allora hanno pensato, ma perché non provare? Però a quel punto prendi una decisione, cioè decidi di renderla una star. Ma davanti alle banconote fruscianti che si accumulavano, tu che decisione avresti preso davanti a queste banconote fruscianti? No. La cosa che a me preoccupa di più è vedere che andiamo sempre di più verso una società dove c'è competizione su tutto, sì, dal talent anni. Al cucinare. Cioè sì, la competizione sul cucinare in tutti i talent, e poi già fin da quando si è bambini, non so se questo è utile per crescere bene. Non lo so, effettivamente si compete su tutto. Si compete, anche tu, solo che tu perdi. Io perdo, quindi la soluzione qual è? Rinuncia. Dai, andiamo alla borsa. Poi vorrei capire anche perché ci sono delle persone che si mettono in fila affannate per recuperare un paio di scarpe bruttissime vendute dalla Lidl. Voglio capirlo. Uno, nessuno, 100 Milan. Summer stretching on the grass, summer dresses pass in the shade of a willow tree. Milan, però il lockdown si sta facendo vedere anche su di te, pesicchia. Ah, dico il presentatore ghanese, ma Luca Giurato non lo supera nessuno. Certo Alessandro, i miei figli quando siamo a tavola e magari io mi impappino su una parola, si guardano e uno dice all'altro: papà è andato in bug. Così fanno, così parlano. Sì. È buggato, questo è buggato. Lagga, buggato, è vero. Papà è andato in bug, non è male. Ridatemi un attimo il mitico Acrobeto, a quasi Boadil, il mio nuovo idolo. Sai che c'ha un account Twitter, se voglio scrivere. Dovremmo trasformarlo in una mega star. Senti la Liga, sei pronto Leonardo a sentire l'annuncio delle partite della Liga Spagnola annunciate da a quasi Boadil? Acrobeto, vai. Spend la Liga. La Liga, Real Madrid. Real Madrid. Bravo. Versus. Cruzca. Cruzca, vabbè. Atlantic Club. Versus. Siviglia. Selvia. Senti l'Osasuna. Senti. Osasuna. Versus. Cosa è? Atlantic Club Madrid. Scusa. Hai sentito Leonardo come ha pronunciato l'Osasuna? Osasuna, me lo fai risentire, Pietro, l'Osasuna? Sì, ce l'abbiamo, vediamo un po'. No, si è impallato tutto, ci ha fatto impallare tutto. Questo è il karma di quelli che dicono che è sbagliato, ce l'abbiamo, niente. Ma Leonardo c'è, è impazzito, è scomparso. Sto facendo un po' di sciopero, ho deciso di scioperare per qualche minuto, per qualche minuto così. Già l'altro giorno avevo deciso di fare un po' di, non ricordo più il motivo, per il vostro mobbing nei miei confronti. Ma quale mobbing? Quando non mi davate il codice, eccetera. Ma te lo diamo sempre il codice. Sì. Effettivamente mi ha scritto che la Rosciani laggava un po'. Sempre, Deborah Rosciani, ma perché parla da casa? Non si capisce, sempre deve avere una linea discutibile a casa. Sì, laggava. Ce l'abbiamo l'Osasuna, senti un po' come pronuncia Acrobeto l'Osasuna, squadra spagnola. Squadra non è male. Ok, siamo andati anche noi in bug. Signori, non abbiamo ospiti adesso per parlare della vicenda delle quindi scarpe Lidl qui. No, ma io vorrei fare veramente tu la sai questa vicenda, l'hai seguita un po'? Ho visto che quest'estate erano in vendita a un prezzo minimo e poi poco alla volta sono diventati degli oggetti di culto. Mi sembra di capire, non sono ben a conoscenza della questione. Sì, cioè ci sono delle scarpe che alla vista sono, sembrano abbastanza orrende. Cioè nel senso sono multicolori, blu, giallo, rosso, sono i colori credo della Lidl, che quindi sarà contenta di questa pubblicità. E sono state prodotte, credo anche con una qualità così basica, costo 12 euro e rotti, ma la gente è impazzita, sono diventati un oggetto di culto, pare che in rete le rivendano a 2000 euro. Allora, io adesso vorrei veramente, vi giuro, incontrare e conoscere una persona che sgancia 2000 euro per prendere questo paio di scarpe della Lidl. Io ci dovrei parlare, dovrei prenderci un caffè con una persona del genere, vorrei sapere tutto, che studi ha fatto, che origine ha, cosa pensa della vita, del futuro, chi siamo, da dove però veniamo, dove andiamo, cosa pensa di Dio. Si vede che avevano un fascino già queste ciabatte all'inizio, perché c'è scarpe, un mio amico, un autore. Scarpe. Non sono ciabatte? No, scarpe da tennis, scarpe. Ma sono scarpe. Comunque c'era un mio amico che ne ha pubblicato la foto già d'estate, quindi vantandosi in qualche modo di questa cosa per la bruttezza, diciamo dal punto di vista estetico. E quindi probabilmente vuol dire che fin dall'inizio hanno avuto un qualche diciamo un qualche appeal in questo senso. A volte il trash, diciamo così, ha questo fascino che poi le porta a essere valutate molto. Adesso cercherò anche l'immagine, vediamo se la trovo. L'immagine, sono arrivate a costarne, lo dico a un ascoltatore saccentino che mi scrive tutti i giorni, sono arrivate a costare 2500 euro, sono state trovate su eBay. E come dire, vorrei conoscere qualcuno, se magari qualcuno ci chiamasse anche nei prossimi giorni, qualcuno che ha comprato le scarpe Lidl, cioè qualcuno che ha fatto. Ma sai che ci sono anche le calze poi Lidl con il marchio Lidl, non so se l'hai visto. Esatto. E questo mio amico Graziano Cutrona, che è anche un autore comico, aveva pubblicato il 3 luglio, ho visto adesso, questa foto, diceva: cercasi volontario, lui aveva le ciabatte della Lidl, cercasi volontario che si presenti al Twiga con le ciabatte della Lidl. al Twiga. Io comunque, e anche con le calze, sempre con marchio Lidl. Io ne vorrei conoscere qualcuno che ha preso queste scarpe. Cioè, che succede? Avete la faccia come il culo. È partito un premio Giachetti così? Vabbè. È partito un premio Giachetti, Leonardo, l'hai mandato tu da casa. Ma per quale motivo? C'è un motivo? No, non lo so, è Pietro la Corte, dice: guarda, io mi alzo le mani, me lavo le mani, io ho detto Ponzio Pilato qui in conduzione. No, non so, si parlava di questi che sono andati a prendere le scarpe Lidl, è partito un premio Giachetti, non lo so. Questo è. Io a casa, per esempio, ho la sottomarca delle Adidas. C'hai mica il premio Giachetti al singolare, per caso? No, scusa, prego, raccontaci, Leo, vai pure. Io ho la sottomarca delle Adidas, che invece che 3 strisce ne hanno 4. Ma devo dire che tra tutte... Hai la faccia come il culo. Scusa, è partito un premio Giachetti al singolare, scusa, non so perché. Ma perché? Non lo so. Bisognerebbe chiedere a Pietro la Corte. Ma non lo so perché subillato. È partito. Secondo me è stato subornato da Miriam Lucchetti lì in regia. No, subornato da Miriam Lucchetti. Ma che verbi usi così? Ammuzzo. Ma non è ammuzzo, vai a vedere. Guarda che proprio vedere. T1 è un termine così anche un po' originale. Esiste subornato. Certo. Vai a cercare subornato. Subornare, vai a cercare il verbo subornare. C'è Pietro la Corte in regia subornato da Miriam Lucchetti. È partito un premio Giachetti al singolare quando hai raccontato delle sottomarche dell'Adidas. Cosa ti devo dire? Io ce l'ho, sono le più comode che ho, tra l'altro, devo dire. 4 strisce, non so nemmeno che marca è. Vabbè. Le make-up, forse. Non avevi le make-up? Non te le ricordi le make-up? No, vabbè. No, che tristezza, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. I stand firm for a soil, little rock and falls, and it's just me, trust me, just me, still see. Comunque siete due anziani, perché uno le chiama scarpe da tennis anni 70 proprio, e l'altro non sa nemmeno cosa sono. Questo è vero. C'è un ascoltatore che mi scrive: mia figlia di 22 anni mi racconta l'ultima moda è vestire, è abbinare vestiti super costosi, che so, un bel cappotto di Armani, una Louis Vuitton eccetera, con qualcosa di orrendo o trash, quindi non so, cappotto Armani e scarpe Lidl. Non lo so se sneaker, bisogna dire sneaker, hai sì, capito? Non va bene scarpe da tennis. No, siamo anziani, sneakers, siamo vecchi. No, siamo italiani. Scarpe, già anche tennis. Vabbè, scarpe da jogging, no? Scarpe da ginnastica. Diciamo solo scarpe che almeno scarpe. Scarpe da ginnastica. Una volta si diceva così, scarpe sì, da sì. Hai messo le scarpe da ginnastica? Perché si usavano solo per fare ginnastica. Ma davvero una non volta. Conosci non le make-up? Una volta mia mamma me le ha comprate, non potevamo prendere le Adidas, abbiamo preso le make-up. Erano simili, ma mitiche le make-up. Non le conosco. Non ricordo. Ricordo vagamente il nome, ma non ricordo aspetta, nemmeno aspetta, mi chiama Sandro scarpe. Fortunati in onda. Adesso io ti giuro gli rispondo. Adesso, aspetta. Sandro, sono in diretta su Radio 24. Vuoi parlare anche tu in diretta? Sono... mi ha chiamato Sandro Fortunati, sì è giusto, ma chiamato... giuro volevi dirgli qualcosa Leonardo, ma chiamato... volevo chiedergli se si chiama Fortunati o Fortunato visto che la diatriba va avanti da un anno. Vabbè. Dai che è arrivato il professor Jansen, dobbiamo sorridere un po', forse ci spiega perché si comprano le tepa sport, è vero, insieme alle make up. No, professor Jansen, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Questo, cari amici, è un periodo pieno di tanto lavoro, è vero, di tanto stress, sì, sì. Perché con le persone chiuse in casa le ansie, le paure, le tensioni si fanno sentire. E allora è importante che io porti a tutti i pazienti il mio metodo di stare bene, senza tante parole, senza terapie, ma con le azioni, con fatti concreti. Per esempio, oggi voglio essere utile alle persone. Questo del coronavirus è un periodo in cui tante coppie si separano, perché la convivenza forzata per tante ore al giorno porta ad avere delle tensioni. E allora si litiga, ci si prende a male parole, ma non potendo poi uscire di casa, non si riesce a scaricare la tensione, perché tutto resta confinato tra le quattro mura di casa. E allora qual è il mio consiglio, attenzione, da psicologo? Attenzione. Qual è il mio metodo per stare bene? Allora, bisogna fare una autocertificazione, con scritto che bisogna uscire per necessità, per cause di forza maggiore, e andare in un negozio di articoli particolari. Lei ha capito di cosa sto parlando? Oddio. Bisogna andare in un negozio di articoli carnevaleschi, sì, a comprare che cosa? Che cosa? Delle maschere, del sì, Paperino, del Topolino, dei personaggi di attualità. Come si trova nei negozi di articoli carnevaleschi, anche la maschera di Donald Trump, la maschera di Berlusconi, altri politici, qualsiasi maschera. Non sono maschere economiche, ma bisogna fare un piccolo investimento, comprarne una decina. Okay. D'altra parte costa sempre meno comprare un po' di maschere che separarsi o divorziare. Poi ogni mattina, sì, quando ti svegli, metti una maschera diversa, in modo che la persona che vive con te non ha l'impressione di stare sempre, bello, in casa con la stessa persona. Geniale. Si può anche fingere, Topolino a casa. Si può fingere di parlare come il personaggio della maschera, come Paperino. Oppure come Donald Trump. Make America great again. E la vostra moglie, sì, sarà stupita da queste presenze, stupendo, inusuali in casa. Ma perché non pensarci a questa cosa? È geniale. Anche mettere la maschera di Melania Trump, così magari Manera si dice: oh, c'è, certo, Melania, finalmente accettato. E quindi non hai l'impressione di aver per la stessa persona. Sì, sì, è utile. Dentro casa, e questa cosa non ti porta alla... È geniale, devo dire, perché non ci ho pensato prima. Alla separazione o al divorzio. Poi c'è l'altro problema. Non so se ci crede anche lei, fino in fondo, professor Jansen, a questa teoria. Chissà. Ma io mi piacerebbe svegliare. E c'è Melania, accettato finalmente. Ma anche c'è Paperino, vivo con Paperoga, e queste cose devono stare bene. C'è l'altro problema, di quelle che non stanno bene, perché a casa... Sì, sì. perché loro hanno Acrobeto come in Ghana, ma noi no. abbiamo invece Manera. No. Cioè. Vabbè, vorrei sapere com'è finita Atalanta-Sampdoria a questo punto. Non lo so. Allora, siccome oggi non ce la faccio a finire, guarda, finiamo così. Continuiamo, continuiamo domani. Domani continuiamo. Giustamente, un ascoltatore ci ha scritto: pensa se Enzo Iannacci avesse dovuto cantare El portava il scap del Sneakers. non funzionava. L'importante è che oggi cominciate a prendere le maschere. Domani continuiamo con la terapia. Domani spieghiamo. Esatto. Oggi avete tempo per comprarle. Del tennis. Vabbè. E parlava de perlu. Sì, dai, chiudiamo con gli Annacci e il buon Manero. Rincorreva già da tempo. Troviamo domani. Un bel sogno d'amore. Domani alle 9. Domani mattina alle 9. No, alle 10 e mezza.